Corso basico di Kabbalah, parte 1, file audio 10. C'è un metodo molto importante che ci viene dato dall'alto per impegnarci ogni minuto a rimanere nel presente. Passo dopo passo impareremo cos'è il presente, ma lascia che ti dia un'idea. Qualunque cosa tu faccia e sperimenti nella tua vita quotidiana, e naturalmente il lavoro spirituale appartiene anche a questo, devi sempre portarlo al tuo interno e fare il tuo lavoro in tre linee. Prima la linea di sinistra e poi la linea di destra e la luce superiore fa la linea nel mezzo. Solo la linea nel mezzo è la vera realtà. E noi chiamiamo questo vita. Ogni momento in cui ti siedi nel passato e noti che anche un secondo fa parte del passato, o hai aspettative per il futuro, e questo può essere tanto positivo quanto negativo, quando sei o nel passato o nel futuro, non hai assolutamente alcun contatto con la fonte della vita, la sola forza creatrice. In un certo senso sei coinvolto in un'ombra e vedi solo una parte della realtà. Quando sei in uno stato, come menzionato sopra, sei suscettibile al male, come le malattie, eccetera. Perché in un certo modo crei un terreno fertile per le forze impure e queste forze si fisseranno su di esso. Come sai già, le forze impure aspirano da ogni luogo in cui si trova la carenza. E con carenza intendo anche la mancanza di consapevolezza. Quando tu guardi da vicino al disegno tu vedi la condizione del passato, è chiamato afterglow. Dopo balione, baliore, anche se può sembrare contraddetto dal tuo senso del linguaggio. Quello che voglio dire qui è che hai una sorta di retrogusto su qualcosa che è accaduto in passato. Con preglow prima del bagliore parlo di retrogusto nel senso di un solletico in bocca proveniente dalla gioia che si ha quando si pensa a qualcosa di piacevole. In un certo senso non è ancora successo ma senti la saliva in bocca e quindi la chiamo Preglow. Il presente bagliore è una condizione della vera realtà. Puoi vedere questo come un'immagine in un dato momento, come conseguenza della tua correzione. Quello che intendo qui è non pensare troppo, ma agire. Ogni giorno si avrà l'opportunità unica di praticare questo, e così facendo si aggiunge un giorno alla tua vita reale. Lezione 9. Informazioni sulla relazione insegnante-studente. È importante sapere come la mia relazione sta prendendo in considerazione te e ogni studente, e perché faccio quello che faccio. Quando inizio la lezione, o anche prima di iniziare, mi disconnetto dal mio essere esterno e mi faccio piccolo. Rendermi piccolo, considerando ognuno che è presente alla lezione. Mi connetto dall'interno con i quattro posti e questo ti permette di ricevere. In un certo modo mi rendo trasparente dall'interno, il mio ego è scomparso. Quando vuoi ricevere l'ottimo della lezione, devi fare lo stesso. Finché il tuo ego sarà presente, non riceverai nulla. Anche tu devi disconnetterti dal tuo essere esterno. Entrambi dobbiamo essere disconnetti con l'essere esterno. È lo stesso con l'area del bene e del male. Io non te lo mostro. Questa è la mia area, riguarda solo me. Questa è la mia area personale. E solo io devo lavorarci sopra, quindi devo chiudere anche quest'area. Ovviamente non è possibile una disconnessione completa, ma mi sto rendendo trasparente. Io ti tratto dall'area del bene, l'essere interno. L'area del bene. Da questa zona cerco di avvicinarti. Ci sono diversi punti di forza e forze nell'universo. Quali sono questi punti di forza e forze? Come stanno manifestandosi? Il creatore stesso fa tutte le forze, si manifesta come una lunghezza d'onda. Possiamo osservare questi punti di forza come lunghezze d'onda. È possibile confrontare questo con la radio. Ci sono lunghezze d'onda lunghe e corte. E ci sono lunghezze d'onda molto sensibili. e lunghezze d'onda ancora di più e più sensibili. Ci sono lunghezze d'onda che sono così sensibili che nessun radar o satellite può attirare questi segnali dal cielo. Tutte queste lunghezze d'onda sono più lunghe e meno sensibili delle lunghezze d'onda dello spirituale. Sono nell'essere interiore. Le lunghezze d'onda dello spirituale sono in ogni essere, nel suo essere interiore. In questa lunghezza d'onda spirituale ci sono miliardi di lunghezze corte e molto forti, più forti di qualunque radar. Le lunghezze d'onda spirituali sono molto più corte e più forti. Possiamo avvicinarci a quest'area, ma nessun radar o nave spaziale può entrare in quest'area. Perché no? Perché è materiale. È possibile solo per ogni essere umano raggiungere questa zona e noi, tutti gli esseri, hanno e devono entrare in questa area spirituale. Questa area spirituale non ha materia, è il punto zero. Lasciami provare a spiegartelo. L'essere esterno è sulla scala delle lunghezze d'onda lunghe. L'area del bene e del male è la lunghezza d'onda breve. E dentro l'essere interiore noi vediamo le lunghezze d'onda più corte ma più potenti. Supponiamo che qualcuno abbia un tumore maligno che riceve la chemioterapia. La chemioterapia è la migliore lunghezza d'onda che può penetrare all'interno della cellula, ma miliardi di volte in più. È il risultato della forza proveniente dall'essere interiore. Puoi immaginare? L'essere esterno è dall'esterno. Non gli importa dello spirituale. Dall'interno dell'essere esterno vediamo la storia. Religione. Ognuno di noi ha la sua storia. Uno può essere un cristiano, un ebreo, un musulmano o un filosofo, ma uno è ancora tra lo strato dell'essere esterno e l'area del bene e del male. In questa zona vediamo anche le malattie. Sono sul lato interno dell'essere esterno. Perché? Uno si ammala quando non è d'accordo con le leggi dell'universo. Che cosa sta facendo? Perché ha una malattia? Gli uomini vivono secondo i loro desideri esteriori. Non importa quando è un ladro o un famoso scienziato. Vive solo nella zona esterna e quando uno pecca nell'area del bene e del male, le radici delle malattie avranno una presa su di lui. Certo, devi sapere che le malattie non esistono. Nel sistema non esistono malattie, ma quando ti comporti male, non vive secondo le istruzioni, ricorda i 4 comandamenti, poi ti ammali. Quando non vivi secondo le leggi dell'universo, sei tu stesso che attrai il male. È la tua parte non corretta, quello che è il terreno fertile. E questo sta avvenendo a te e si manifesta in te attraverso problemi fisici. Allora soffri perché? È solo lì per te, per costringerti a fare bene. L'esterno non mi interessa. Le malattie cominciano dal lato esterno e quando non ascolti, diventa cronica. Va all'interno. Allora diventa un peccato. Cosa significa questo un peccato? Quando commetti un errore, per la prima volta non è un peccato. Anche la seconda o la terza volta non è un peccato. Ma quando continui a fare lo stesso errore, diventerà un peccato. Allora diventa una parte di te, in un modo che si stabilizzano dentro di te. Il primo errore è facile da correggere, ma non appena si trasforma in un modello, presto penserai che sia qualcosa di standard, che non puoi giudicare più chiaramente. Siamo interessati solo all'essere interiore. Ad esempio, uno è demente. È solo un danno dal suo essere esterno. Ma il suo essere interiore è ancora vivo. Certamente si può fare un'iniezione, ma devi sapere che il suo interiore è ancora vivo. Dentro di lui splende il sole, ma i medici vedono solo l'essere esterno. Agli occhi del Creatore è ancora buono perché vede la persona già nella fase successiva. Vede la persona che ha corretto tutto. So che è difficile da capire, quindi impara a distinguere l'esterno e l'interno. Qual è l'esterno e qual è l'interno? Le tue domande devono riguardare l'interiore. A queste domande risponderò. Non le domande su questo mondo materiale. Non parlo di questo mondo. Ognuno di noi ha una buona parte. Per me questa è una certezza, ma altri non lo sanno ancora. Voglio penetrare la storia e portarti al tuo essere interiore. La storia è la parte esterna dell'essere interiore. E voglio andare al vostro interno. Perciò mi faccio piccolo, poi posso brillare dall'interno. Questo porterà la comunicazione avanti e indietro, ma anche tu devi renderti piccolo. Nell'interno le lunghezze d'onda sono molto brevi, ma molto forti. Questo è ciò che cerco di trasmettere. Cerco di trasmettere i punti di forza spirituale. Ricevo questi punti di forza leggendo i libri sacri. E mentre leggo questi libri, faccio lo stesso. Mi faccio piccolo. E ora posso ricevere le brevi lunghezze d'onda. Mentre sei qui, io ti bombardo con queste brevi lunghezze d'onda. Brillo attraverso la tua storia. Guardalo in questo modo. La tua storia è come un calcare, morbida e facile da penetrare. E sotto il calcare c'è l'essere interiore. La storia non tocca il tuo interiore. Il bene deve venire dall'area del bene e del male. Non dal bene della religione o da qualsiasi altra cosa. Deve venire dalla tua area, dal tuo bene interiore. Dal mio lato interiore io penetro il tuo esterno per venire nella tua area interiore. Questo è il tema del nostro studio. Stiamo parlando di come l'uomo può correggere se stesso, correggere l'area del bene e del male. Questa è la nostra area di lavoro. Tutte le religioni sono un embrione del vero lavoro spirituale. La Kabbalah ha inizio quando le religioni finiscono. È la Kabbalah che ti porta al tuo essere interiore. Penetro questa area. E quando ascolti e leggi questo e ti fai piccolo, sarà certamente di aiuto. Ma devi fare la tua parte, devi aiutarmi, devi aiutare il Creatore. Quindi, fai lo stesso come faccio io. Renditi piccolo. Avere lo stesso comportamento. Quando ti fai piccolo, diventa più facile per me penetrarti, per raggiungere il tuo interiore, per bombardare la tua area del bene e del male. E poi un giorno porterai il frutto del nostro lavoro. Il calcare fertilizzerà la terra. E la mia parte è avvicinarti alla mia area interna. Naturalmente, ho anche una parte esterna, ma è la mia e tocca a me lavorarci sopra. Solo nell'essere interno c'è il bene, c'è il creatore seduto. Il mio compito è da dentro e non dalle parole. Ma si tratta di punti di forza all'interno delle parole. Non si tratta del cantante, ma della canzone. E attraverso queste forze scompare il tuo calcare. Lo noterai perché puoi respirare più profondamente e diventare più puro. Più ti purifichi, più profondamente posso venire. Sempre più in profondità, sempre più in profondità. Tu sentirai sempre di più, ma dovrai cooperare con me. Il tuo atteggiamento deve essere al 100% all'interno, mirato allo spirituale. Non sinceramente nello spirituale c'è solo tutto o niente. Non esitante, nello spirituale c'è solo tutto o niente. Devi aprire i tuoi cancelli al 100%. Aprire i tuoi cancelli al tuo essere interiore. Allora il mio compito finirà. Avrai una relazione personale con il Creatore. Il mio compito è solo quello di penetrare nella tua area calcarea, così ora puoi raggiungere e venire al tuo essere interiore. Un giorno sarai indipendente, nel senso che hai la tua relazione diretta con il Creatore, con la luce. Una volta che sei diventato indipendente, puoi dire la tua preghiera, ma questo è possibile solo quando hai raggiunto e sperimentato il tuo interiore. Solo allora puoi venire direttamente in contatto con il Creatore e riceverai da Lui la risposta diretta. Il creatore ha le lunghezze d'onda più corte. All'interno dell'Ein Sof c'è una tale lunghezza d'onda, così breve, e questa lunghezza d'onda ti penetrerà completamente, dall'interno verso l'esterno. Allora ricevi la forza che espanderà il tuo bene sempre di più e più. Lezione 10. Questa lezione ha avuto luogo all'inizio di dicembre 2004. In quel periodo di quell'anno che gli ebrei, era il momento in cui si celebrava la festa Hanukkah. Hanukkah è la festa in cui il popolo ebraico durante 8 giorni fa ardere la luce. Sto per raccontarti la storia e il contesto spirituale. Circa 165 avanti Cristo, gli ellenisti in Israele arrivarono ad est. I governanti di quel tempo stavano avendo uno sfondo greco, ma c'erano anche influenze del popolo della Siria perché avevano catturato anche Israele. Naturalmente il popolo di Israele stava rivoltandosi, ma una famiglia speciale che sosteneva la vittoria fece il più. Siate consapevoli del fatto che non stiamo parlando delle esperienze umane personali, ma principalmente dei punti di forza che stavano funzionando in questi giorni. Qual è stata la ragione di tutto questo? Non l'evento è importante, è tutto sui punti di forza che erano attivi durante questo tempo. Ciò che è accaduto con Israele doveva accadere. I punti di forza dovevano scendere qui sulla terra. Devi conoscere tutti i punti di forza. I punti di forza spirituali dovevano venire un giorno sulla terra, perché la terra ha bisogno di loro e tutte le forze sono state discese. Non verrà l'Apocalisse, ma essere consapevoli che quel che l'alto non vede come un apocalisse, non significa che non lo sperimenteremo come un disastro. Ma ciò che è scritto nel libro L'Apocalisse, questo non accadrà. Tutti i punti di forza di cui la terra ha bisogno sono qui. Ovviamente ci sarà un focolaio, ma i punti di forza più alti sono pronti. L'evento in Israele nell'anno 165 avanti Cristo doveva accadere. La storia non è importante, non è rilevante, ma so che doveva accadere. La festa di Hanukkah è il simbolo della riconquista del Tempio. E una famiglia di sacerdoti fece tutto questo. E successivamente loro pulirono il tempio. Tutte le occupazioni, ciò che loro avevano fatto e lasciato alle spalle, dovevano essere chiarite. La maggior parte di voi conosce quel candelabro che ha posto per 7 candele e si chiama menorah. E durante quel tempo avevano bisogno di olio per accendere le candele e lasciarle bruciare. Vedi, ogni cosa è spirituale. Non c'era olio perché doveva essere un olio molto speciale. E la storia ci dice che c'era solo una bottiglia di questo speciale olio rimasto, sufficiente per bruciare una candela. Deve sempre esserci un accordo tra lo spirituale e il fisico. Di cosa si trattava? Il mondo era nell'oscurità spirituale. Era il momento del mondo ellenistico. E questo mondo era focalizzato sulla cultura, l'arte. Costruivano molte statue. Le persone erano focalizzate sul loro corpo, culturismo, eccetera. Naturalmente questo tempo aveva portato un sacco di cose buone. Ma il problema era che avevano dimenticato il mondo spirituale. Solo l'esterno era importante. Il più alto adagio del greco era lo standard della bellezza. È scritto nell'Antico Testamento che il secondo figlio del Noah avrebbe portato la bellezza, e in effetti la generazione di Davide aveva portato al mondo occidentale molte belle cose, per esempio l'arte, la cultura e il terzo figlio, Shem, si teneva saldo alle forze spirituali. Era il tempo della fioritura della bellezza, ma senza Shem rimane solo la bellezza esteriore. Il secondo figlio era Yafet. Questo è ciò di cui stiamo parlando. Questa è la legge dei punti di forza. Era proibito per un ebreo tenersi occupato con arte, cultura, eccetera. Perché? Quando uno fa così, ha la possibilità di fare descrizioni dall'interno. Una descrizione tra lui e la forza interiore. E questo è idolatria. Facendo descrizioni, si ha la possibilità di inquinare il patto che abbiamo fatto con la sorgente. In un certo senso, fisico, esso non è più importante. Si tratta del popolo ebraico, circa i suoi desideri altruistici. I greci nominavano Israele, cioè il popolo di Israele, non poteva più lavorare in modo spirituale su loro stessi. Era il lavoro spirituale quello che era oppresso. L'esterno, i desideri egoistici, erano molto più importanti e non la condizione dell'anima. Quando parliamo dei greci, sappi che non parliamo del greco esterno, ma riguarda la condizione esteriore dentro di me, dentro di ognuno di noi. Ma il popolo ebraico si teneva occupato con l'esterno, con la cultura e l'arte ellenistica, eccetera. Ma una volta che uno è coinvolto in questo, non può realizzare il suo obiettivo e di conseguenza uno cade nell'oscurità. La festa di Hanukkah è perciò quella festa che celebra una parzialità di uomini alleggerita. In quel momento qualcosa è venuto dall'alto. Le forze spirituali sono scese sulla terra. Nulla scompare nello spirituale. C'è una legge che ci mostra che non c'è scomparsa nello spirituale. È la legge universale che tutto sarà ancorato per l'eternità. Ogni anima che discende qui sulla terra non sarà mai persa. Anche quello che hai appena letto sarà là sempre davanti. Ci sono otto luci. Un servitore accende le candele. Uno è più alto dell'altro. Uno deve illuminare l'altro. Il servitore che accende le candele, serve gli altri. Si rende piccolo e solo in questo modo, rendendosi più piccolo, può servire gli altri. La prima sera è la luce di Shamash, la luce di Chochmah. Questo è il seme della luce che viene alla terra, la più piccola sfera Malchut. Tutto deve essere corretto. È il modo di correggere dal più fine al più grezzo. Prima correggiamo i nostri piccoli desideri e poi i desideri più rozzi. C'è bisogno di più luce per i desideri più rozzi. Noi abbiamo bisogno della luce per passare. Puoi confrontare questo con un gonfiore. Quando il gonfiore è piccolo, abbiamo bisogno di poca medicina. Ma quando il gonfiore diventa sempre più grande, abbiamo bisogno di qualcosa di chemioterapico. Chemioterapia, per esempio. E c'è un altro paragone. Supponiamo che uno non beve mai, beve solo un bicchiere. È abbastanza per lui. Ma per qualcuno che è un bevitore abituale, vuole bere molti più bicchieri. In ogni cosa possiamo vedere la via dal più debole al più forte. Le donne hanno causato la diminuzione della luce. Non parliamo delle donne fisiche, solo dei punti di forza. I punti di forza femminili sono i desideri egoistici. Considera che abbiamo bisogno di entrambi, maschio e femmina. La donna accende la prima candela di Chochmah del Malchut e il giorno dopo lei accende Yesod. Dopo le due candele bruciano. In questo modo lavoriamo dalla sinistra alla destra. La luce è accesa e noi sperimenteremo. Tutte le luci bruceranno finché non abbiamo raggiunto le 8 giorni, l'ultima candela. Tutta la luce proviene da Chochmah e Chochmah significa saggezza. Noi abbiamo 10 sfirot. Ogni cosa è 10. Ogni cosa perfetta è 10. Nella singolare luce del Creatore ci sono 10 sapori. Keter, Binah, eccetera. Sono variazioni della luce. Più andiamo ai piani sotto, più rozzo diventa. I 7 sfirot più bassi sono più ruvidi e il più rozzo è Malchut, di Chilim. Certo, una parte di Binah è anche al piano di sotto. Binah si è divisa. La sua parte superiore vive accanto al Chochmah, quindi c'è sempre luce. Questo è l'essere umano che ha così la parte maschile come la parte femminile. Quando un uomo pensa di avere solo il maschile in lui, non può portare alcun frutto. Era lo stesso durante la Seconda Guerra Mondiale. I machos stanno rovinando tutto. Possono solo rovinare. Abbiamo bisogno di entrambi. Così come il maschio e la femmina, anche se c'è una differenza. La parte maschile all'interno di una donna è femminile. E la parte femminile all'interno dell'uomo è maschile. Tutto è qualitativo. Ma tu hai entrambi dentro di te. Un terzo delle forze più elevate rimane con Chochmah. Da Chochmah riceviamo la luce. Come viene la luce a noi? Ci deve essere una fusione, anche nel fisico, così come nel spirituale. Come nello spirituale. La luce deve penetrarvi, una fusione con la luce. Uno scontro di fusione, Zivug de Haka'a. Allora la luce può entrare. È la stessa cosa nel nostro mondo. Un uomo fa la proposta. La donna dice di no, ma continua a provare e alla fine lei dice di sì. È lo stesso nello spirituale. Un terzo di Binah è sopra. 2/3 di Binah scendono in basso. ai suoi figli. I prodotti di Chokhmah e Binah hanno le qualità dei loro figli. È lo stesso nel nostro mondo. Guarda una donna che sta giocando con suo figlio. È facile farlo per una donna. È il Binah che sta scendendo. Keter, Chokhmah e Binah sono i desideri altruistici. E sotto questi desideri vediamo i desideri egoistici, il desiderio di ricevere. Keter, Chokhmah e Binah non hanno bisogno di ricevere, ma tutto ciò che è sotto a Keter, Chokhmah e Binah ha bisogno di ricevere. Sono il prodotto di Malchut. Loro vogliono ricevere. È anche giusto. Questo anche è giusto. I tre primi punti di forza sono i punti di forza del dare. Poi lentamente la forza diminuisce. Keter vuole dare il 100%. Chokhmah per 99% e con Binah vediamo l'inizio della forza della limitazione. Chokhmah è un po' più ruvido, anche se molto sottile, ma con Binah abbiamo già la sensazione di resistenza. A volte Binah viene in basso per aiutare l'inferiore a venire alla luce. Guarda la somiglianza con il nostro mondo. Prima c'era l'oscurità. Il tempo degli ellenisti era un tempo di oscurità spirituale per le persone. Gran parte del popolo ebraico dimenticò la Torah. Anche loro costruiscono centri fitness. Anche loro pensano solo al corpo fisico. C'era solo interesse per il corpo fisico e sempre meno andavano al tempio. È per questo che è diventato un tempo di oscurità. Non pensare che i greci fossero cattive persone. Ricorda, tutta la miseria è dovuta a e per l'interesse di. Ci sono sempre due parti nello spirituale. Ed entrambe possono essere in armonia. La contraddizione è solo qui sulla terra, ma nello spirituale c'è solo l'armonia. Tutta la miseria era dovuta agli ebrei, e tutta la miseria è per il bene degli ebrei. Puoi vedere come è splendido questo. Mentre gli ebrei avrebbero dovuto adempiere al loro compito, essi non avrebbero avuto alcun interesse per i greci. Se l'ebreo avesse trascorso il suo tempo alla Torah, e non altrimenti, passando il suo tempo al bodybuilding, eccetera, il greco avrebbe ricevuto la luce. Ma quando un ebreo trascura il suo lavoro spirituale ed è interessato solo al suo corpo fisico, il greco non può ricevere la luce. Il servizio del tempio è diviso in tre livelli. Prima abbiamo i sacerdoti, Kohanim, poi il Levita, Leviti, e il terzo livello, Israele. Questo è il modo in cui la luce arriva di sotto. Viene da sopra a sotto. Possiamo vederlo negli 10 Sefirot. L'essere umano è come i 10 Sfirot. I tre superiori sono gli ebrei spirituali, Keter, i sacerdoti, Chochmah, Levita, e Binah, Israele. Ciò che resta sono i 7 Sfirot. Ogni sfera ha 10 Sfirot. 7 volte 10 è 70. 70 radici delle nazioni qui sulla terra. 70 radici e oltre a queste 70 nazioni, di base vediamo molte subnazioni. È compito dell'ebreo di trasmettere, quando trascurano il loro compito, la miseria e la sofferenza ne sono la conseguenza. Certo, non è solo un problema degli ebrei, ha anche a che fare con la progressione delle nazioni. Non pensare che l'ebreo abbia una posizione privilegiata perché sono in un livello spirituale più alto. Devono fare questo lavoro. È la legge. Vedi, l'ebreo come la testa e le nazioni come il corpo. C'è qualche vantaggio? Cos'è un corpo senza testa? E cos'è una testa senza corpo? Un ebreo può venire al suo adempimento solo dopo che le nazioni hanno raggiunto il loro compimento. Ma perché? Quando solo la testa raggiunge il suo compimento, i tre sfirot sono molto vicini al Creatore. Sembra meraviglioso, ma sono solo tre sfirot. Solo quando tutti e 10 le sfirot sono con il Creatore abbiamo realizzazione. Come anche per gli ebrei, come per gli altri. Come nazione siamo uno. Nella spiritualità c'è solo unità. Ogni cosa viene da una sola anima. Le 10 Sefirot, i primi tre, l'ebreo. Ognuno di noi ha questi 10 sfirot, indipendentemente dalla tua origine. Quando usiamo la parola Israele, non parliamo della terra Israele. Il significato della parola Israele è andare direttamente al Creatore. È un attributo più vicino al creatore. Questo è ciò che intendiamo quando parliamo di Israele e nient'altro. Ogni essere umano ha queste due forze, la forza di Israele e la forza delle nazioni del mondo, i figli di Binah. O in altre parole, i nostri desideri egoistici. Naturalmente ogni nazione è unica e insieme formiamo un caleidoscopio del Creatore. La candela che abbiamo acceso per prima è il Malchut. Questa è la più piccola. E quindi accendiamo la prossima. La più brillante è Chokhmah, perché ogni cosa viene da Chokhmah. È molto importante imparare a distinguere qual è la prospettiva che si sta parlando. Parliamo della via dell'alto al basso o parliamo della via da seguire da sotto a sopra? Cerca di distinguerlo, questo, altrimenti non c'è comprensione di tutta la Torah, tutta la Kabbalah.